Come vanno le cose a casa? Indagò Jeremy. Parlava a bassa voce, quasi a mormorii, muovendo appena le labbra e con un accento non privo di affettazione. Oh, da 300 anni in Inghilterra non succede niente, disse il capitano. Mi scusi per la curiosità, Mr. Todd, ma vedendola entrare in albergo non ho potuto fare a meno di notare il suo bagaglio. Mi sembrava che ci fossero svariate casse segnate come Bibbie. Oh, mi sbaglio? Chiese Jeremy Summers. Assolutamente no, sono proprio Bibbie. Ma non eravamo stati avvisati che sarebbe stato mandato un altro pastore. Abbiamo navigato insieme per 3 mesi e non mi ero proprio accorto che lei fosse un pastore, Mr. Todd, esclamò il capitano. In realtà non lo sono, replicò Jacob Todd, dissimulando l'imbarazzo dietro una boccata di fumo del sigaro. Missionario, allora? Pensa di andare nella Terra del Fuoco, immagino. Gli Indios Patagoni sono pronti per essere evangelizzati. Degli Araucani si dimentichi, caro mio, li hanno già catturati i cattolici, commentò Jeremy Summers. Di Araucani non ne sarà rimasta che una manciata. Questa gente ha il vizio di farsi massacrare, specificò il fratello. Erano gli indigeni più selvaggi d'America, Mr. Todd. La maggior parte morì combattendo contro gli spagnoli. Erano cannibali. I prigionieri li tagliavano a pezzi da vivi. La cena la gradivano fresca, aggiunse il capitano. Lei e io faremmo la stessa cosa se qualcuno ci uccidesse la famiglia, mettesse a fuoco il villaggio e ci rubasse la terra. Fantastico, John. Adesso difendi il cannibalismo, replicò il fratello disgustato. A ogni modo, Mr. Todd, le consiglio di lasciar perdere i cattolici. Non dobbiamo provocare i nativi, questa è gente molto superstiziosa. Le credenze altrui sono superstizioni, Mr. Todd, le nostre si chiamano religione. Gli indigeni della Terra del Fuoco, i Patagoni, sono molto, molto diversi dagli Araucani. Ma sono ugualmente selvaggi, vivono nudi in un clima spaventoso, disse Jeremy. Porti loro la sua religione, Mr. Todd, vediamo se almeno imparano a usare i pantaloni, aggiunse il capitano. Todd non aveva mai sentito nominare quegli indigeni e l'ultima cosa che desiderava era andare a predicare qualcosa in cui nemmeno lui credeva, ma non osò confessare che il suo viaggio era il risultato di una scommessa tra ubriachi. Rispose, stando sul vago, che pensava di organizzare una spedizione missionaria, ma che doveva ancora decidere come finanziarla. Se avessi saputo che veniva a predicare a questa brava gente i disegni di un dio tirannico, mi sarei sbarazzato di lei in mezzo all'Atlantico, Mr. Todd. Li interruppe la cameriera con il whisky e il tè. Era un adolescente in fiore, stretta in un abito nero con cuffietta e grembiule inamidati. Chinandosi con il vassoio, lasciò nell'aria una perturbante fragranza di fiori essiccati e di stiratura a carbone. Nelle ultime settimane Jacob Todd non aveva visto donne e rimase incantato a guardarla con un groppo di solitudine. John Summers aspettò che la ragazza si allontanasse. Faccia attenzione, mio caro, le cilene ammaliano, disse. Non direi. Sono basse, larghe di fianchi, hanno una voce sgradevole, disse Jeremy Summers tenendo in equilibrio la tazza di tè. Ma se per loro i marinai disertano, esclamò il capitano. Lo ammetto, in fatto di donne non sono certo un'autorità. Non ho tempo per dedicarmici, devo occuparmi degli affari e di nostra sorella, te ne sei dimenticato? Oh, neanche per un istante, visto che me lo ricordi sempre. Vede, Mr. Todd, io sono la pecora nera della famiglia, la testa matta. Se non fosse per la bontà di Jeremy. Quella ragazza sembra spagnola, lo interruppe Jacob Todd, seguendo con gli occhi la cameriera che in quel momento stava servendo a un altro tavolo. Ho vissuto 2 mesi a Madrid e ne ho viste molte come lei. Qui sono tutti meticci, persino nelle classi alte. Non lo ammettono, ovviamente. Il sangue indio viene nascosto come fosse una calamità. Non li biasimo, gli indigeni hanno fama di essere sporchi, ubriaconi e pigri. Il governo cerca di migliorare la razza chiamando immigranti europei. Nel sud regalano le terre ai coloni. Il loro sport preferito è ammazzare indigeni per prendersi la terra. Stai esagerando, John. Non sempre è necessario eliminarli con una pallottola, basta farli bere, ma certo ammazzarli è molto più divertente. A ogni modo, noi britannici non prendiamo parte a questo genere di passatempi, Mr. Todd. Perché mai dovremmo piantare patate se possiamo far fortuna senza sfilarci i guanti? Qui le possibilità non mancano per chi ha spirito imprenditoriale. In questo paese c'è ancora tutto da fare. Se preferisce lo sviluppo, va dal nord. C'è argento, rame, salnitro, guano. Guano? Merda d'uccello, chiarì l'uomo di mare. Non è il mio campo, Mr. Somers. Far fortuna non interessa a Mr. Toad Jeremy. Lui si occupa di fede, vero? La colonia protestante è numerosa e prospera, l'aiuterà. Domani venga a casa mia. Di mercoledì mia sorella Rose organizza delle serate musicali e sarà una buona occasione per farsi degli amici. Manderò la mia carrozza a prenderla alle 5. Si divertirà, disse Jeremy Somers, congedandosi. Il giorno successivo, rimesso a nuovo da una notte senza sogni e da un lungo bagno che gli tolse la salsedine che gli si era incollata all'animo, ma ancora con il passo barcollante di chi ha navigato a lungo, Jacob Todd uscì a passeggiare per il porto. Percorse senza fretta la strada principale, parallela al mare, così vicina alla riva che le onde lo spruzzavano, beve qualche bicchierino in un caffè e mangiò in un'osteria del mercato. Se n'era andato dall'Inghilterra nel febbraio di un gelido inverno e dopo aver attraversato un eterno deserto di acque stelle in cui aveva perso addirittura il filo dei suoi passati amori, era arrivato nell'emisfero meridionale all'inizio di un altro inverno impietoso. Prima di partire non gli era venuto in mente di informarsi sul clima. Aveva immaginato un Cile caldo e umido come l'India, perché pensava che i paesi dei poveri fossero così. E si era ritrovato alla mercé di un vento gelido che gli raschiava le ossa e sollevava mulinelli di sabbia e spazzatura. Si perdette più di una volta nelle strade tortuose, girando e rigirando, per ritrovarsi poi nel medesimo punto da cui era partito. Salì per le viuzze, torturate da scale infinite e orlate da case assurde che non erano appese a nulla, cercando con discrezione di non disturbare l'intimità altrui, guardando dalle finestre. Incappò in romantiche piazze dall'aspetto europeo, coronate da slarghi, in cui le bande militari suonavano musica per innamorati, e passeggiò per timidi giardini calpestati dagli asini. Ai bordi delle strade principali si innalzavano alberi superbi, nutriti dalle fetide acque che scendevano a vista dalle colline. Nella zona commerciale era talmente evidente la presenza dei britannici che si respirava un'atmosfera illusoria di altre altitudini. Le insegne di molti negozi erano in inglese e i suoi compatrioti a passeggio erano vestiti come a Londra, con gli stessi ombrelli neri da becchini. Ma non appena si allontanò dalle strade centrali, la povertà lo colpì e lo investì con l'imprevedibilità di uno schiaffo. Vide gente nuda, sonnolenta, soldati con le uniformi logore e accattoni ovunque. A mezzogiorno esplosero all'unisono le campane delle chiese e immediatamente la confusione cessò. I passanti si fermarono, gli uomini si levarono i cappelli, le poche donne presenti si inginocchiarono e tutti si fecero il segno della croce. La visione durò il tempo di 12 rintocchi e subito dopo nella strada riprese l'attività come non fosse successo nulla. Gli inglesi. La carrozza mandata dai Somers arrivò all'hotel con mezz'ora di ritardo. L'autista aveva alzato parecchio il gomito, ma Jacob Todd non aveva alternative. L'uomo lo portò verso sud. Aveva piovuto per un paio d'ore e le strade erano diventate impraticabili in alcuni tratti in cui le pozzanghere d'acqua e fango celavano trappole fatali, buche certamente in grado di ingoiarsi un cavallo distratto. Sui bordi della strada stazionavano bambini con coppie di buoi pronti a recuperare le carrozze impantanate in cambio di una moneta. Ma nonostante la miopia dell'ebbrezza, l'autista riuscì a eludere le buche e presto iniziarono a salire le pendici di una collina. Arrivando a Cerro Alegre, dove viveva la maggior parte della colonia straniera, la città mutava radicalmente d'aspetto e scomparivano le catapecchie e le case brulicanti di gente della parte bassa. La carrozza si fermò davanti a una villa di ampie proporzioni, ma dall'aspetto tormentato, una mostruosità costruita con torrioni pretenziosi e inutili scale conficcata tra i dislivelli del terreno, illuminata con una quantità tale di torce che alla notte non era rimasto che indietreggiare. Venne ad aprire la porta un servitore indio, con indosso una livrea troppo grande che, dopo essersi fatto consegnare soprabito e cappello, condusse Todd in una sala spaziosa, arredata con mobili di buona fattura e tendaggi un tantino teatrali di velluto verde, sovraccarica di ornamenti, priva di un centimetro libero su cui far riposare la vista. Immaginò che in Cile, come in Europa, una parete nuda fosse considerata segno di povertà e si ravvide solo molto tempo dopo quando visitò le case buie dei cileni. I quadri erano stati appesi con un'inclinazione che permettesse di apprezzarli dal basso e la vista si perdeva nella penombra dei soffitti alti. L'imponente camino, che bruciava grossi ceppi e i vari bracieri a carbone, distribuivano in modo disuguale un calore che lasciava i piedi gelati e rendeva la testa febbricitante. Era presente poco più di una dozzina di persone vestite alla moda europea e diverse cameriere in divisa che giravano con i vassoi. Jeremy e John Somers gli si fecero incontro per salutarlo. «Le presento mia sorella Rose», disse Jeremy accompagnandolo in fondo alla sala. E in quel momento Jacob Todd vide, seduta a destra del caminetto, la donna che avrebbe messo a ferro e fuoco la pace della sua anima. Rose Somers lo colpì immediatamente, più che per il suo piacevole aspetto, perché gli parve sicura di sé e allegra. Non aveva nulla della grossolana esuberanza del capitano né della fastidiosa solennità del fratello Jeremy. Era una donna dall'espressione scintillante che sembrava sempre sul punto di scoppiare in una risata civettuola. Quando ciò avveniva, una rete di rughe sottili le appariva intorno agli occhi e per qualche strana ragione fu soprattutto questo ad attrarre Jacob Todd. Non fu in grado di attribuirle un'età tra i 20 e i 30 probabilmente, ma immaginò che in capo a 10 anni sarebbe stata identica perché era ben fatta e aveva un portamento regale. Sfoggiava un abito di taffetà color pesca ed era priva di gioielli, fatta eccezione per dei semplici orecchini di corallo. Il più elementare galateo suggeriva di limitarsi ad accennare il gesto di baciarle la mano senza toccarla con le labbra, ma gli si offuscò il giudizio e, senza sapere come, ci stampò sopra un bacio. Quel saluto risultò talmente inappropriato che per una pausa lunga, un'eternità, rimasero in sospeso nell'incertezza. Lui trattenendole la mano come chi impugna una spada e lei osservando la traccia di saliva senza osare pulirla per non offendere l'ospite, fino a quando non li interruppe una ragazzina vestita da principessa. Allora Todd reagì all'inquietudine. E mentre si raddrizzava riuscì a cogliere l'espressione ironica che i fratelli Somers si stavano scambiando. Tentando di sviare i sospetti, si girò verso la bambina con un'attenzione esagerata, deciso a conquistarla. «Questa è Eliza, la nostra protetta», disse Jeremy Somers. Jacob Todd commise il secondo errore. «In che senso protetta?» chiese. «Vuol dire che non sono della famiglia», spiegò Eliza pazientemente col tono di chi sta parlando a un tonto. «Ah no? E che se mi comporto male mi manderanno dalle monache papiste». «Ma cosa dici, Eliza?» «Oh, non le faccia caso, Mr. Todd. Ai bambini vengono sempre in mente idee strane. Certo che Eliza è della nostra famiglia», si intromise Miss Rosa alzandosi in piedi. Eliza aveva trascorso la giornata a preparare la cena con mamma Fresia. La cucina si trovava in cortile, ma Miss Rose l'aveva fatta congiungere alla casa mediante una tettoia per evitare l'umiliazione di servire piatti freddi o decorati dalle colombe. Quella stanza, annerita dall'unto e dalla fuliggine dei fornelli, era il regno indiscusso di mamma Fresia. Gatti, cani, oche e galline passeggiavano a loro piacimento sui pavimenti di mattoni rustici non incerati. Lì ruminava per tutto l'inverno la capra che aveva allattato Eliza, oramai molto anziana, che nessuno aveva osato sacrificare perché sarebbe stato come uccidere una madre. Alla bambina piaceva l'aroma di pane crudo nelle forme, quando il lievito sospirando realizzava il misterioso compito di rendere spugnosa la pasta. Quello della glassa di zucchero per la decorazione delle torte, quello delle scaglie di cioccolato che si scioglievano nel latte. I mercoledì dei ritrovi, le due domestiche, giovani indie che vivevano nella casa e lavoravano alla preparazione dei pasti, Pulivano l'argento, stiravano le tovaglie e tiravano a specchio i vetri. A mezzogiorno mandavano il cocchiere in pasticceria a comprare i dolci preparati su ricette gelosamente custodite dai tempi della colonia. Mamma Fresia ne approfittava per appendere a una guarnizione dei cavalli una borsa di cuoio contenente latte fresco che, trottando all'andata e al ritorno, si trasformava in burro. Alle 3 del pomeriggio Miss Rose chiamava Eliza nella sua camera, dove il cocchiere e il cameriere personale avevano collocato una vasca da bagno di bronzo con piedini di leone. Le domestiche la ricoprivano poi con un lenzuolo e la riempivano d'acqua calda, profumata con foglie di menta e rosmarino. Rose ed Eliza sguazzavano come due bambine fino a quando l'acqua non si era raffreddata e a quel punto ritornavano le cameriere con le braccia cariche di indumenti e aiutavano entrambe a indossare calze, stivaletti, pantaloni a mezza gamba, camicia di batista seguita da una sottoveste imbottita sui fianchi per accentuare la snellezza della vita e subito dopo 3 sottovesti inamidate per finire poi con il vestito che le copriva interamente lasciando scoperte solo la testa e le mani. Miss Rose utilizzava anche un corsetto rigido fatto con stecche di balena, talmente stretto da non consentirle di respirare in profondità né di sollevare le braccia oltre le spalle. Non riusciva nemmeno a vestirsi da sola né a chinarsi, perché le stecche si sarebbero rotte e le si sarebbero conficcate come aghi nel corpo. Questo era l'unico bagno della settimana, una cerimonia paragonabile solamente al lavaggio dei capelli del sabato, che qualsiasi pretesto poteva annullare dal momento che si riteneva pregiudizievole per la salute. Durante la settimana Miss Rose utilizzava il sapone con cautela, preferiva frizionarsi con una spugna imbevuta di latte e rinfrescarsi con dell'eau de toilette alla vaniglia, seguendo così, come aveva sentito dire, una moda che in Francia vigeva dai tempi di Madame Pompadour. Eliza era in grado di riconoscerla a occhi chiusi in mezzo a una moltitudine di gente, grazie alla sua particolare fragranza da dessert. A 30 anni passati, Miss Rose manteneva la pelle trasparente e fragile, tipica di alcune giovani inglesi, prima che la luce del mondo e la loro peculiare arroganza la trasformassero in cartapecora. Si prendeva cura del suo aspetto utilizzando acqua di rose e limone per schiarire la pelle, miele di amamelide per ammorbidirla, camomilla per dar luce ai capelli e una collezione di balsami e lozioni esotiche portate da suo fratello John dal lontano Oriente, dove, a quanto si diceva, vivevano le donne più belle dell'universo. Si inventava vestiti ispirati alle riviste londinesi e se li faceva da sé nella sua stanza del cucito con un pizzico di ingegno e di fantasia. Modificava il suo abbigliamento grazie agli stessi nastri, fiori e piume che venivano utilizzati per anni senza invecchiare. Quando usciva non usava come le cilene un mantello nero per coprirsi, abitudine che le sembrava aberrante, ma preferiva le sue mantelline corte e la sua collezione di cappelli, anche se per strada erano soliti guardarla come fosse una cortigiana. Felice di vedere un volto nuovo nella riunione settimanale, Miss Rose perdonò a Jacob Todd il bacio impudente e, presolo per il braccio, lo condusse a un tavolo rotondo situato in un angolo della sala. Gli fece scegliere tra vari liquori, insistendo perché assaggiasse la sua mistela, uno strano intruglio di cannella, acquavite e zucchero che lui, non riuscendo a inghiottirlo, versò di nascosto in un vaso di fiori. Poi gli presentò i convenuti: Mr. Applegreen, costruttore di mobili, accompagnato dalla figlia, una giovane scolorita e timida, Madame Colbert, direttrice di una scuola inglese per fanciulle, e infine Mr. Ebling, proprietario del miglior negozio di cappelli per uomo e per signora, che si avventò su Toad chiedendogli notizie della famiglia reale inglese come se si stesse parlando dei suoi parenti. Conobbe anche i chirurghi Page e Pote. Questi dottori operano con cloroformio, dichiarò con ammirazione Miss Rose. Qui è ancora una novità, ma in Europa ha rivoluzionato la pratica della medicina, spiegò uno dei medici. A quanto ne so, in Inghilterra si utilizza regolarmente nell'ostetricia. Non lo usò forse la regina Vittoria? Aggiunse Toad, tanto per dire qualcosa, visto che non sapeva niente dell'argomento. Qui l'opposizione dei cattolici in materia è forte. La maledizione biblica impone alla donna di partorire con dolore, Mr. Toad. Non vi pare ingiusto, signori? La maledizione dell'uomo è di lavorare col sudore della fronte, ma in questa sala, tanto per non andare troppo lontano, il sudore con cui i gentiluomini si guadagnano da vivere è quello degli altri, replicò Miss Rose, arrossendo violentemente. I chirurghi sorrisero imbarazzati, ma Todd la osservò rapito. Sarebbe rimasto con lei tutta la serata, benché, a quanto ricordava, a Londra l'atteggiamento più consono per un incontro era restare insieme solo una mezz'ora. Si rese conto che in quella riunione la gente sembrava disposta a fermarsi e immaginò che la cerchia sociale dovesse essere molto limitata e che probabilmente quella dei Somers era l'unica riunione settimanale. Era immerso in simili congetture quando Miss Rose annunciò che si sarebbe dato inizio all'intrattenimento musicale. Le cameriere portarono altri candelabri che illuminarono la sala a giorno. Collocarono le sedie intorno al pianoforte, una viella e un'arpa, le donne si sedettero a semicerchio e gli uomini si sistemarono dietro in piedi. Un paffuto gentiluomo si accomodò al piano e mentre dalle sue mani da macellaio si sprigionava un'incantevole melodia, la figlia del fabbricante di mobili interpretò un'antica ballata scozzese con una voce talmente aggraziata che Toad dimenticò completamente il suo aspetto da topino spaventato. La direttrice della scuola per fanciulle recitò un poema eroico inutilmente lungo. Rose, invece, cantò un paio di canzoni picare in duetto con il fratello John, nonostante l'evidente disapprovazione di Jeremy Somers, e poi reclamò da Jacob Todd che li dilettasse con qualche pezzo del suo repertorio. L'ospite ebbe dunque l'opportunità di mettere in mostra la sua bella voce. Lei è una vera sorpresa, Mr. Todd. Non ci sfuggirà, si consideri condannato a venire tutti i mercoledì, esclamò lei una volta terminato l'applauso, senza badare all'espressione imbambolata con cui l'ospite la guardava. Toad sentiva i denti appiccicosi di zucchero e la testa che gli girava. Non sapeva se soltanto a causa dell'ammirazione per Rose Somers o anche per la complicità dei liquori ingurgitati e del potente sigaro cubano fumato in compagnia del capitano Somers. In quella casa, rifiutare un bicchiere o un piatto era un'offesa. Presto avrebbe scoperto che quella era una caratteristica nazionale in Cile, paese in cui l'ospitalità si esprimeva obbligando gli invitati a bere e a mangiare oltre i limiti dell'umana possibilità. Alle 9 venne annunciata la cena e tutti si trasferirono in processione nella sala da pranzo in cui li attendeva un'altra serie di piatti impegnativi e di nuovi dessert. Verso la mezzanotte le donne si alzarono da tavola e proseguirono la conversazione nel salone, mentre gli uomini degustavano brandy e fumavano in sala da pranzo. Finalmente, quando ormai Toad era sul punto di venir meno, gli invitati iniziarono a chiedere i loro soprabiti e le carrozze. Gli Ibling, profondamente interessati alla sua presunta missione evangelizzatrice in Terra del Fuoco, si offrirono di accompagnarlo in albergo e lui accettò immediatamente, terrorizzato all'idea di ritornare con il buio pesto per quelle strade da incubo con il cocchiere ubriaco dei Somers. Il viaggio gli sembrò eterno, si sentiva incapace di concentrarsi sulla conversazione, aveva il mal di mare e lo stomaco sottosopra. Mia moglie è nata in Africa, è figlia di missionari che in quelle terre diffondono la vera fede. Sappiamo quanti sacrifici tutto ciò comporti, Mr. Toad. Speriamo che ci voglia concedere il privilegio di aiutarla nel nobile compito che svolgerà tra gli indigeni, disse con solennità Mr. Ibling quando si congedarono. Quella notte Jacob Todd non riuscì a dormire. La visione di Rose Somers lo tormentava con crudeltà e prima dell'alba aveva preso la decisione di corteggiarla sul serio. Non sapeva niente di lei, ma non gliene importava perché forse il suo destino era di perdere una scommessa e di arrivare fino in Cile per conoscere la sua futura sposa. Ci si sarebbe dedicato dal giorno successivo. Ma in preda a violente coliche, non fu in grado di alzarsi dal letto. Rimase in queste condizioni per un giorno e una notte, passando da intervalli in cui era privo di conoscenza a momenti di agonia, fino a quando non riuscì a radunare le forze per affacciarsi alla porta e invocare aiuto. Su sua richiesta, il direttore dell'albergo fece avvisare i Somers, gli unici conoscenti che aveva in città. e chiamò un ragazzo per pulire la stanza che puzzava di lettamaio. Jeremy Somers si presentò all'hotel a mezzogiorno accompagnato dal flebotomo più noto di Valparaíso. Questi, che si rivelò padrone di alcuni rudimenti di inglese, dopo avergli salassato gambe e braccia fino a lasciarlo esangue, gli spiegò che come mettevano piede per la prima volta in Cile, tutti gli stranieri si ammalavano. «Non c'è motivo di allarmarsi. A quanto ne so, sono pochissimi quelli che muoiono», lo tranquillizzò. Gli prescrisse del chinino da prendere in ostie di carta di riso, ma la nausea che lo piegava in due gli impedì di inghiottirle. Era stato in India e conosceva i sintomi della malaria e di altre malattie tropicali curabili con il chinino, ma questa indisposizione non assomigliava nemmeno lontanamente ad alcuna di esse. Appena il flebotomo se ne fu andato, tornò il ragazzo per portarsi via gli stracci e pulire di nuovo la stanza. Jeremy Somers aveva lasciato gli estremi dei dottori Page e Pote, ma non si fece in tempo a chiamarli perché, 2 ore più tardi, apparve in albergo un donnone che pretese di vedere il malato. L'accompagnava per mano una bambina vestita di velluto blu, con stivaletti bianchi e un cappellino bordato di fiori, simile al personaggio di una favola. Erano Mama Fresia ed Eliza, mandate da Rose Somers, che aveva poca fiducia nei salassi. Irruppero nella stanza con una tale sicurezza che il debilitato Jacob Todd non osò protestare. La prima veniva in qualità di guaritrice e la seconda di interprete. «La mia mamita dice che le toglierà il pigiama. Io non guarderò», spiegò la ragazzina, e si girò verso il muro mentre l'India lo denudava con 2 zampate e procedeva a frizionarlo completamente con acquavite. Gli misero nel letto mattoni caldi, lo avvolsero nelle coperte e gli diedero da bere a cucchiaiate un infuso di erbe amare dolcificate con miele che doveva placare i dolori dell'indigestione. «La mia mamita adesso si metterà a romanzear la malattia», disse la ragazzina. «E cosa sarebbe? Oh, non si preoccupi, non fa male». Mamma Fresia chiuse gli occhi e iniziò a passargli le mani sul torace e sulla pancia, sussurrando parole magiche in lingua mapuche. Jacob Todd si sentì invadere da un torpore irresistibile e prima che la donna avesse finito, si era addormentato tanto profondamente che non si accorse quando le 2 donne sparirono. Dormì per 17 ore e si svegliò madido di sudore. La mattina successiva, Mamma Fresi ed Eliza tornarono per somministrargli un'altra vigorosa frizione e una tazza di brodo di gallina. «La mia mamita dice che non deve più bere acqua, prenda solo del tè ben caldo e non mangi frutta, altrimenti le torneranno le voglie di morire», tradusse Eliza. In capo a una settimana, quando riuscì a reggersi in piedi e si guardò allo specchio, si rese conto che con quell'aspetto non poteva presentarsi a Miss Rose. Aveva perso diversi chili, era emaciato e non riusciva a fare più di 2 passi senza crollare su una sedia boccheggiando. Quando fu in grado di mandare un biglietto a Miss Rose in cui la ringraziava per avergli salvato la vita e dei cioccolatini per Mamma Fresi ed Eliza, venne a sapere che la donna era partita con un'amica e la domestica per Santiago, un viaggio rischioso viste le cattive condizioni della strada e del clima. Miss Rose percorreva quel tratto di 34 leghe una volta all'anno, sempre all'inizio dell'autunno o in piena primavera per andare a teatro, ascoltare buona musica e fare gli acquisti annuali al grande magazzino giapponese, profumato di gelsomino e illuminato con lampade a gas con globi di vetro rosato, in cui comperava le quisquilie difficili da trovare al porto. Questa volta, tuttavia, c'era una buona ragione per recarvisi d'inverno. Avrebbe posato per un ritratto. Per far scuola agli artisti nazionali, era arrivato in Cile, su invito del governo, il celebre pittore francese Monvoisin. Il maestro dipingeva solo il volto, il resto era opera dei suoi aiutanti e sempre per guadagnare tempo venivano applicati direttamente sulla tela i pizzi. Ma nonostante questi truffaldini escamotage, niente dava tanto prestigio quanto un ritratto firmato da lui. Jeremy Somers insistette per averne uno della sorella da far troneggiare nel salone. Il quadro costava 6 once d'oro e una supplementare per ogni mano. Ma in un caso del genere non si poteva andare a risparmio. Come dicevano i suoi clienti, l'opportunità di avere un'opera autentica del grande Monvoisin non si presentava 2 volte nella vita. Se la spesa non è un problema, allora voglio che mi dipinga con tre mani. Sarà il suo quadro più famoso e finirà esposto in un museo invece di stare appeso sul nostro caminetto. Fu il commento di Miss Rose.